Fuori c'è pioggia, ma qui dentro c'è il sole. Fuori bombardano, ma qui dentro non piove. Sento il profumo del mare, le aquile ci vengono a trovare. Il cane gioca col gatto, sul divano l'hanno distrutto. Fuori c'è pioggia, ma qui dentro c'è il sole. La luna illumina i fiori che stanno per fiorire. Il tempo non porta clessidra, si è fermato all'altra fermata. Limpida, magica, mitica, prendimi, prendimi l'edera. Vedo le stelle ballare, sono entrate senza bussare. Chi ti avrà dato il nostro indirizzo? Ma forse erano già sotto il tetto. Bevo la luce dalla sorgente, bacio la tua splendida fronte, accendo il cammino che è il momento di spengere questo fuoco di vento. Fuori c'è pioggia, ma qui dentro c'è il sole. Una storia da verniciare sui muri di tutto il paese. Il vento ci fa l'occhiolino, abbracciati sino al mattino. Gli alberi ci fanno l'inchino. Prego, signora, mi venga vicino. Fuori c'è pioggia, ma qui dentro c'è il sole. Suona la tromba, la nostra canzone. Vengono da un altro pianeta le tue luminose preghiere, lucciole, cicale a cantare la bellezza del tuo cuore. Vedo le stelle ballare, sono entrate senza bussare. Chi gli avrà dato il nostro indirizzo? Ma forse erano già sotto il tetto. Bevo la luce della sorgente, bacio la tua splendida fronte, accendo il cammino che è il momento di spengere questo fuoco di vento. E vedo ballare le stelle, sono entrate senza bussare. Chi gli avrà dato il nostro indirizzo? Ma forse erano già sotto il tetto. Bevo la luce dalla sorgente, bacio la tua splendida fronte, accendo il cammino che è il momento di spengere questo fuoco di vento.